mettili su tavola. Mettile su carta. Fai viaggiare. Dagli una destinazione. Destinale a scarcerare. Destinale a scarcerare. Destinale a scarceranda. Crea un'immagine anticarceraria, un disegno, un fumetto per Scarceranda, l'agenda contro ogni carcere, giorno dopo giorno. Invia il tutto a Radio Onda Rossa, via dei Volsci 56 00 185 Roma, San Lorenzo, o alla nostra email ondarossa@ondarossa.info. Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza, anche per oggi 16 ottobre 2019 inizia prove tecniche di trasmissione, appuntamento che andrà avanti sino alle 22.30 circa. www.ondarossa.info il sito internet dal quale si può anche rintracciare la possibilità di usufruire del nostro streaming, già abbastanza frequentato. Infatti andiamo a salutare Silvia qui a Roma, Maya e Nicolò Locci dalla Sardegna, li salutiamo, Antonio Zoviet alias Omicidio che ci sta ascoltando da Firenze, Luciano FM genovese qui a Roma, Lupsi, valente musicista in quel di Udine, ossia Lucia Cagliazza. Un saluto anche a Marco qui a Roma e anche a Deborah in quel di Nettuno. Un grosso abbraccio naturalmente a Raffaele Pezzella, collaboratore diciamo a distanza, lui sta a Napoli. Allora, iniziamo con un'artista italiana che da un po' non trattavamo. Lei è Aima Project, diciamo più nota come il 50% di Legemeux Discordant, un vecchio progetto tra il martial, il neofolk, la sperimentazione in genere, il dark ambient, ma anche come Aima Project, quindi suo progetto autonomo, ha scritto delle pagine molto interessanti, tra cui questo Haiku Irregolare in forma di musica, un album che uscì nel 2018 con la Show Me Your Wounds Production, che se non erro è un'etichetta svizzera. Un album che si avvale di interessanti collaborazioni: Butanaisir, Marco Milanesio, Vince Aquarian, Northgate, eccetera, eccetera. Oggi ci ascoltiamo la prima traccia, proprio in collaborazione con Wootenance Here, dal nome Trasmutazione dell'Albero Cuore, e la quarta traccia, sì, esatto. La quarta traccia, che si chiama Le Ore Silenziose, con la partecipazione di Vince Aquarian, già del Ballo delle Castagne, per chi si ricorda. Yeah. dunque siamo andati a ripescare questo lavoro del 2018, questo Aiku irregolare in forma di musica. Ottimo lavoro di Aima Project, che salutiamo in quel di Brescia, se non ricordo male, la ricordiamo anche come fondatrice dei Les Jumeurs Discordants insieme a Roberto Del Vecchio, ex Gotica, qualcuno si ricorderà anche questo nome. Come Aima Project, tre lavori, diciamo anche quattro, esatto, tutti quanti con la Show Me Your Wounds Production, questa ottima etichetta svizzera. Molto epico, sinfonico, neosinfonico, neoclassico, un album molto intenso per quanto riguarda Aima Project, un progetto che per l'appunto mi sento caldamente di consigliare e di approfondire. Adesso andiamo dunque a Napoli da Raffaele Pezzella. Lo chiamiamo in causa perché abbiamo qui questa antologia, nome preciso, Middle East Music Survey, Anthology of Contemporary Music from Middle East. Quindi, in poche parole, un'antologia di progetti musicali provenienti dal Medio Oriente, tra Asia e Africa. Un compendio molto molto interessante che ci farà conoscere dei nomi ultrasotterranei che chiaramente la pazienza certosina di Raffaele Pezzella è riuscito a tirar fuori e a mettere appunto su CD. Una compilation che esce chiaramente per la Next Place Sounds Group Production. E quindi cominciamo con l'ascoltarci Naujawadan Baidar, un progetto dall'Afghanistan. Poi ci ascolteremo Bloom Tribe, proveniente dal Kuwait, e Sanger Gun dalla Turchia. Quiet Blue Tribe, atmosfera un po' diversa, un po' più sperimentale, questi di Descendants, Blue Tribe. Eccolo qua, Senker Gun, queste Beer, quasi atmosfere glitch, lui proviene dalla Turchia. Beer per Senker Gun. Abbiamo cominciato a conoscere questa interessantissima compilation Middle East Music Survey Anthology of Contemporary Music from Middle East, abbastanza chiaro. Progetti provenienti dal Medio Oriente, c'è anche un pezzo d'Europa comunque dentro, Cipro se non erro, la stessa Turchia, la parte migliore della Turchia, quella musicale, l'altra lasciamo perdere. E tre artisti dunque estratti da questa compilation, e naturalmente andiamo a ringraziare il buon Raffaele. Peraltro sarà impegnato anche nel nuovo lavoro di Lupsi, che salutiamo di nuovo in sede di trattamento del suono. Salutiamo Silvia in quel di Ostia, Antonella in Sicilia, il medico della peste, anche lui è un affezionato di questi spazi. 21:35, Onda Rossa 87.9, prove tecniche di trasmissione. Ringraziamo ulteriormente Raffaele per la pazienza, perché sta postando anche vari siti riguardanti questi musicisti, e peraltro la cosa bella che nel disco ci sono anche, oltre che la provenienza, anche i vari siti dove si possono andare a cercare questi artisti, abbastanza difficili un po' da reperire. Intanto andiamo a salutare 25 O'Clock, che rientra questa sera in trasmissione e ricomincia anche lui, quindi lo salutiamo di nuovo. Lui inizierà intorno alle 22:30. Dunque lasciamo questa compilation, andiamo avanti. E lo facciamo con U731, un progetto credo britannico, rimane il dubbio, andrò a vedere, ma a giudicare dai nomi dovrebbe essere così. Questo è un album del 2014 del nome By All Means, l'unico album per questo progetto di area più o meno death ambient. Partecipazioni con John Stillings, Andrew Grant, e proprio John Stillings è ospite di questa The Mechanics on the Embalming. Thank you. 731, questo era By All Means, un unico lavoro uscito nel 2014. Anche questo è un album che ci ascolteremo la prossima settimana, come la compilation di Raffaele Pezzella e l'album di Aima Project. Andiamo avanti, e stiamo andando proprio avanti nel conoscere il vecchio repertorio per quanto riguarda i serbi Autopsia. Vi ricordo, inizio carriera soprattutto creatori di cassette, quel formato che andava moltissimo proprio negli anni 80 e 90. Qui abbiamo International Eterna, prodotto dalla Produxia Slovenia, una cassetta appunto uscita nel 1988. Terzo lavoro dunque per Autopsia, e estraiamo Kissing Jesus in the Dark e Gate. Yeah. Ancora Topsia, intanto andiamo a salutare Giovanni Lisi, un bentornato a lui di Cordis Cinti Serpente, e lo ringraziamo anche per quello che ci ha mandato qui in radio, sia proprio la ristampa del, credo proprio del primo lavoro di Cordis Cinti Serpente, che chiaramente sentiremo presto. Un saluto dunque a Giovanni Lisi e noi ci ascoltiamo ancora Autopsia da questo International Eterna. Un interessantissimo lavoro del 1988, questo International Eterna, che stiamo conoscendo a seguire Oscurarum Infame, con la quale abbiamo iniziato questa retrospettiva autopsia le scorse settimane. Avvolgenti soluzioni gotico-industriali con un tangibile anche contenuto tribale nelle varie tracce di questa cassetta del 1988, ricordo. Collettivo aperto, questo di Autopsia, che si è sempre mosso tra Londra, Praga e l'iniziale Novi Sad in Serbia. E da una cosa che nobilita i miei personali archivi, andiamo a una ultimissima uscita, una nuova uscita per quanto riguarda Deutsch Nepal. Si chiama Staring at My Wall e ci conferma Peter Anderson o Lina Babydoll, che dir si voglia, in ottima condizione creativa.